Ne tient qu'un fil, donc mille façons de mourir. Les images défilent jusqu'à se noircir. Le cœur s'arrête jusqu'à s'endurcir. Un dernier soupir avant de partir. Faut pas se mentir, le destin t'attend. Inutile de s'enfuir, découvrir le présent plutôt que partir. Un passé trop présent, de l'embryon jusqu'au son de le charbon. Le temps se met en question, imagination et perd de la raison. Par définition, l'inévitable pousse les gens vers l'impossible, hypossession, silicone et bistouri, tout est possible. Mais aucun ne rendra plus 20 ans, car ce qui est visible n'est que décoration. Saturation de sport pour péter la forme. L'attention focalise sur la santé qui se déforme. La consommation hors norme, vide de pommonnée, damnée par la jeunesse éternelle. Le hasard en la monnaie, à chaque minute foutue à la poubelle. Les plus belles années qui s'envolent reviennent sous forme de regret. Crée des complexes avec ta personnalité, mais chaque période a sa beauté. Arrête de pleurer, vis la vie en entier. Nell'incerto, la speranza di chi è mezzo, convinzione nella fede sarà cenere alla cenere, nuova luce, buio, presto, fino, stesso percorso, non importa quanto è corso sarà cenere alla cenere, tutto può succedere, ma cerca di vedere che è poco ciò che vale, perché cenere alla cenere, nuova luce, buio, presto, fino, stesso percorso, forse yo, conta come è corso e poi yo, si cenere alla cenere. I dig my grave, cut my wrist with winter blades and watch the blood flow on my veins disintegrate. It's nothing, I'm no one, I'm just a piece of dirt. I came from and will return underneath the earth. The struggle is fat, tough luck, the facts are fucked up. The trouble is that we're stuck in a bubble of crap. Utter the facts, buddy, cause it's the same if we die from drugs in a bag or a Muslim attack. The real deal, harsh like Kill Bill. Why not grab this feeling, watch your kid when you feel ill? I still drill, one day we'll be there. Hopefully prepared, even if we'll still be scared. Be a pessimist, cause they lost the will to care. Death will come whether you're poor or a millionaire. No lies in the truth, we're buried with a tie and a suit. While our bodies decompose, they reunite with their roots. Che si ha paura nell'incerto, la speranza di chi è mezzo, convinzione nella fede sarà cenere alla cenere, nuova luce, buio, presto, fino, stesso percorso, non importa quanto è corso sarà cenere alla cenere, tutto può succedere, ma cerca di vedere che è poco ciò che vale, perché cenere alla cenere, nuova luce, buio, presto, fino, stesso percorso, forse conta come è corso e poi si cenere alla cenere. Riguardo ogni cosa che per me è contato, parlo d'attimi sciolti, qualche amore rubato, capelli raccolti che il tempo ha tagliato. La morte è l'unica cosa che do per scontato. E tu che prendi? Che alla vita non dai più del dolore che rendi. Sappi che noi siamo più orrendi, volendo sempre dare un senso all'assenza dei sensi. E tu che senti? Questi momenti impellenti, cerchi di rendere i minuti più lenti. E tu che pensi? Hai solo coiti interrotti con i tuoi sentimenti. E cercare il tuo io, giustificare il tuo Dio, sfuggirgli nei tuoi figli, aspettare l'oblio, cercando anime di legno da accendere, potendo dare solo cenere alla cenere. Non c'è ragione di farsene una, un modo per venire, molti di più per andarsene. Ma non c'è vita sul lato scuro della luna, e chi non ha idee propri ha bisogno di darsene. Corro nel buio a lume di lanterna, difendendo dal tempo la giovinezza sapendo.